Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i titoli di Stato, quindi il mercato dei titoli di Stato, oggi appunto un nuovo dato positivo, nel senso che l'asta è andata tutta esaurita in senso buono, e sono leggermente saliti i tassi dei rendimenti dei BTP a 5-10 anni. Però stiamo parlando di un leggero rialzo rispetto ai minimi storici toccati a marzo. I BTP a 5 anni rende a questo punto lo 0,63% lordo, se uno lo porta in scadenza, questo è il guadagno che ha ogni anno come interesse, e quello a 10 anni l'1,4% contro l'1,34% di marzo. E comunque, per quello che riguarda l'asta, non c'è solo, o per quello che riguarda il debito pubblico, non c'è solo l'asta di oggi, ma c'è anche la stima della Banca d'Italia che dice: attenzione, le misure della Banca Centrale Europea, e quindi l'acquisto di titoli di Stato operato dalla BCE e dalle banche centrali dei singoli paesi, quello che va sotto il nome di quantitative easing, darà un aiuto, avrà un impatto sull'economia italiana pari a 1,4 punti percentuali di PIL nel biennio 2015-2016, sia come effetto diretto, e quindi il calo dei tassi, ma anche come effetto indiretto, l'abbassamento dell'euro, che oggi però è in recupero, adesso ci arriviamo, e la spinta all'export. Dal calo dell'euro dopo la misura della BCE, la Banca d'Italia si attende addirittura 4 punti percentuali in più di esportazioni nel biennio 2015-2016. Dicevo dell'euro, che oggi però è in rafforzamento a quota 1,11, quindi leggermente più alto della quota 1,06, 1,07, 1,08 delle settimane dei mesi scorsi, sempre a un livello 1,1 comunque nei confronti del dollaro. Il resto della borsa invece è negativa, non solo Milano, anzi Milano tra quelle che perdono perde meno, ma le borse sono tutte significativamente negative. Mi riferisco quindi a Milano meno 1,80, Parigi meno 2, Francoforte meno 2,70%. E ancora, per quello che riguarda le borse non dell'area euro, Londra meno 0,70, l'America meno 0,20%. Che cosa è successo? Ci sono dei dati sul PIL americano sotto le attese, male oggi tutte le banche, nel caso specifico, così andiamo su Milano, abbiamo Monte dei Paschi meno 3,40, Pop Milano meno 3,14, la peggiore però è Mediolanum, nonostante i dati sull'utile in crescita meno 3,76%, poi c'è Fiat Chrysler che perde 4,40. Qui ci sono notizie, nel senso che per quello che riguarda Fiat Chrysler, e ne parleremo, sono usciti oggi i dati sui primi tre mesi, ricavi in aumento per il gruppo del 19%, le consegne auto però a livello mondiale sono calate del 2%, bene però nel mercato americano e in America Latina, bene la Jeep più 11%, le consegne, le vendite più 22%, le attività europee del gruppo Fiat Chrysler hanno chiuso in utile nei primi tre mesi e confermati tutti gli obiettivi per il 2015, un utile netto tra 1 miliardo e 1 miliardo e 2. Ciò nonostante la borsa va a vendere. Ci occuperemo anche chiaramente del Milan dopo l'Inter. Questo, se vogliamo, può essere anche quasi l'emblema degli acquisti delle nuove economie emergenti, e mi riferisco non solo a quello che è avvenuto su Pirelli, su Prismian, qui parliamo di calcio. Già l'Inter non è più italiana, come sanno anche i Sassi, e si chiama Toir, ma in questo caso è anche il Milan. A questo punto le voci sono sempre più insistenti. Oggi il thailandese Tek Bull è rientrato in Italia da Ginevra e sta per incontrare ad Arcore il presidente del Milan Berlusconi. L'offerta in ballo è quella per l'acquisto della maggioranza del del Milan incordata con B. Ci sarebbero anche i soci di Abu Dhabi, la società di brokeraggio ADS Securities, e i cinesi di China Citic Bank, indirettamente controllata dal governo. Sul tavolo 500 milioni di euro in cambio del 51% del Milan. Ancora, per quello che riguarda invece altre notizie, oggi ci occuperemo dell'Expo. Perché? Perché con domani sera inizia la lunga diretta di Radio 24. Domani c'è il concerto in Piazza del Duomo che sostanzialmente segna la consegna, scusate il gioco di parole, dell'Expo alla città, l'inaugurazione vera e propria poi venerdì 1 maggio alle 12, alla presenza anche del Presidente del Consiglio Renzi. Avremo una lunga diretta che partirà domani appunto dalle 21 e poi tutta la mattinata di lunedì e il pomeriggio di venerdì e il pomeriggio di venerdì, sia per raccontare la parte istituzionale e anche, speriamo di no, ma eventualmente dover raccontare le eventuali tensioni che vi dovessero essere. Oggi i nostri GR24 avevano già ricordato ampiamente del sequestro operato di gruppi che erano pronti a creare scontri sociali, scontri anche di piazza in vista dell'inaugurazione dell'Expo. Dicevo, tra due giorni si apre quindi l'Expo, faremo il punto di questo con chi rappresenta il mondo dei pubblici esercizi italiani e in questo caso anche milanesi lombardi, e mi riferisco al presidente della FIPE Stoppani. Perché? Perché l'obiettivo è cercare, non in maniera generica e retorica, di dare una buona accoglienza, di non trattare i turisti dell'Expo come selvaggina da passo, da spennare in vista della manifestazione, e capire che cosa ha fatto anche l'associazione di categorie per dare un vademecum ai vari esercizi commerciali e anche un po' di formazione, visto che se tutto andrà come noi ci auguriamo, perché tutti dovremo tifare per l'Expo, arriveranno turisti stranieri da paesi molto distanti e quindi con abitudini, culture, atteggiamenti anche diversi, e su questo le iniziative ci sono state anche sul territorio, ripeto, non solo lombardo, non solo milanese, ma lombardo in senso generale. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa puntata, oltre al Milan, all'Expo e alle borse, ripeto, il caso Fiat e le prospettive per l'andamento del bilancio della Fiat. Tra i titoli, così concludo la pagina di borsa, oltre a quelli già citati, quindi Fiat e le banche, segnalo che anche la Pop Emilia Romagna perde il 2,94%, mentre tra i titoli non bancari calo pesante su Finmeccanica meno 3,26%, su Buzzi Unice meno 3,20%, su Moncler meno 3%. Chi guadagna? Solo Telecom Italia più 0,47%, Pirelli più 0,26%. Il numero per i vostri sms come sempre 349-238-6666, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Giustamente un ascoltatore mi dice, ma insomma, ma perché, se il motivo di borsa è il calo, o meglio il PIL americano più deludente rispetto alle attese, Wall Street perde solo lo 0,25, le borse europee sono tutte tra l'1,80 come Milano e il 2,90% di Francoforte? Beh, non c'è solo questo, c'è per esempio anche, intanto c'è anche la scusa a vendere, guardate i livelli delle borse e i pretesti sono buoni. C'è per esempio la Banca Centrale Europea che ha chiesto a tutte le banche europee da lei vigilate entro l'anno 326 milioni di euro per sostenere i costi della vigilanza unica che ha assunto da novembre del 2014. Le 123 banche più grosse sosterranno l'89% dei costi, le 3500 banche meno significative, come si chiamano in gergo, sostengono l'11% dei costi. Allora, alcuni mi scrivono per l'Expo, adesso ci arriviamo. Non possiamo sempre fare le cose, diciamo, male, il termine è un po' diverso, e sperare nello stellone. Allora, guardate, tutto vero, è obiettivamente il ritardo del padiglione Italia è sotto gli occhi di tutti, anche perché è l'unico elemento architettonico che resterà anche nel dopo Expo. Detto questo, prima di fare come sempre si fa in Italia, di dare le colpe all'ultimo arrivato o a chi ha il cerino in mano per ultimo, ricordiamoci la vicenda Expo per bene, poi avremo modo per parlarne in queste settimane, in questi mesi. Il vero tempo perso si è perso nei primi 2 anni, tutto il battibecco sul ruolo, su dove, addirittura sulla sede del commissario, era stanca quel tempo. L'ex ministro la voleva Palazzo Reale, poi tutto il battibecco tra l'allora sindaco di Milano Letizia Moratti, battibecco per modo di dire, scontro vero e proprio, e il ministro, l'allora ministro dell'economia Tremonti sul ruolo di Glisenti, che la Moratti spingeva in maniera insistita. Tutto questo ha bloccato tutto un insieme di le scelte, e lì c'erano forti interessi economici dietro su come gestire, acquistare, non acquistare, come acquistare l'area dell'Expo. Insomma, lì si è perso tantissimo tempo. Che poi sia un vizio italiano, quando la scadenza è ancora là da venire, di perdere tempo lo sappiamo, ma questo non vuol dire salvare il soldato Sala, inteso come Giuseppe Sala, il commissario straordinario per l'Expo, vuol dire solo dare per bene le responsabilità in una manifestazione in cui non possono essere messi sotto accusa solo quelli che hanno gestito gli ultimi 2/3 anni, ecco. Allora, non ho capito perché mi stiano dando del gobbo juventino, che non devo parlare del Milan, ma che state dicendo? A parte che vi sbagliate grandemente sulle mie inclinazioni, diciamo, calcistiche, su chi tifo, ma parliamo del Milan perché da più parti, anche fonti, diciamo, media, se stanno confermando che l'offerta c'è ed è seria, e bisognerà capire se diciamo, andrà a buon fine. Insomma, molti scommettono che andrà a buon fine. Detto questo, come va Mediaset? Questa è una domanda corretta, -3% oggi. Allora, andiamo rapidamente sulle altre notizie. Dicevamo del PIL americano, rallenta nel primo trimestre, +0.2%, dato sotto le attese degli analisti, scommettevano in un +1%. Rallentano le esportazioni americane, beh, questo è dovuto anche al dollaro più forte, e poi calano i prezzi del petrolio e gli investimenti, condizionati appunto sia dal dollaro forte che dall'inverno rigido. I consumi invece vanno bene in America, +2% nei primi 3 mesi. Questa sera tra l'altro si riunisce il FOM, che è il comitato della Federal Reserve, ma è abbastanza scontato che non toccherà i tassi, nel senso che già il dollaro si è abbastanza rafforzato grazie a Mario Draghi, quindi Mario Draghi ha fatto indirettamente anche il lavoro che avrebbe dovuto fare la Federal Reserve. Quanto alzi i tassi di interesse, la tua valuta si rafforza, però visto che il dollaro si è rafforzato non per, anche senza alzare i tassi di interesse americani, solo perché Draghi ha lanciato il quantitative easing, la Federal Reserve ha più tempo per alzare questi tassi, infatti tutti scommettono che se arriverà non prima di settembre. E domani sarà un altro G-Day, Greek Day, chiamiamolo così, dovrebbe essere il Brussels Group, ossia il gruppo che ha preso il posto della Troica. Domani si riunirà a Bruxelles e dovrebbe ricevere la lista di riforme proprio dal governo di Atene. C'è già una bozza di decreto che è circolata e contiene gli elementi già al centro dei negoziati. Il ministro greco alle finanze Varoufakis ha detto che siamo molto più vicini all'obiettivo di quanto credono i media, e noi speriamo appunto di essere smentiti da Varoufakis. Esiste già una lunga lista di riforme che tutti gli interessati considerano essenziali, e poi ha voluto smentire il suo commissariamento, ha detto sono sempre io a guidare le trattative nell'Unione Europea, per cui non è vero. In questo modo ha risposto a chi diceva che ha perso la fiducia del premier Tsipras. È andata invece male l'asta di bond a 5 anni tedeschi, i Bund, perché i tassi erano negativi

Vedo molte battute. Va bene. Va bene, ci sta anche la battuta. Però vediamo di non fare come Tafazzi. Qualcuno si ricorda Tafazzi? Quello che, diciamo, per punire qualcuno, o mettiamo così, di non fare come il marito cornuto che si elimina la parte riproduttiva del suo corpo. Perché io ritengo, lo dico, tutto il paese dovrebbe tifare perché l'Expo funzioni, perché l'Expo non è solo Milano, non è la Lombardia, è una piattaforma, una vetrina per tutto il paese. E soprattutto se l'Expo dovesse iniziare a godere di cattiva stampa perché non sta funzionando, è un marchio ulteriore contro l'Italia. Gli stranieri sappiamo che non sono mai teneri con il nostro paese, e quindi alla prima toppa iniziano ad attaccare, per cui almeno non facciamoci del male da soli. Il che non vuol dire imbavagliare le critiche, non poter criticare, e non essere prevenuti, utilizzando l'espressione che usano alcuni, che è presa da quella mitica espressione di Fantozzi dopo la visione della corazzata Potemkin. Per cui, ecco, auguriamoci che l'Expo funzioni. Detto questo, al di là dell'ordine pubblico di cui vi hanno già raccontato i nostri GR24, c'è, insomma, quello che è successo ieri a Milano è particolarmente grave. Cioè, una città che si paralizza per mezza giornata a causa del fermo dei mezzi pubblici indetto dai CUB, la Confederazione Unitaria di Base Trasporti, in segno di protesta contro il piano di lavoro extra firmato dall'azienda dei trasporti milanesi da 7 sigle sindacali. Insomma, io va benissimo il diritto di sciopero e di manifestazione, cerchiamo però di ricordarci anche che cosa attende Milano nei prossimi giorni. Ne ha parlato il presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, Roberto Alesse, con il nostro Simone Spezia durante Effetto Giorno. Più di un anno fa presi carta e penna e scrissi al governo per sottoporre all'attenzione del medesimo la necessità così di incontrarci tutti quanti per vedere se fosse stato possibile raggiungere un accordo su base volontaria intorno a un patto di tregua sindacale, con riferimento a quando scrissi un anno fa doveva ancora partire il semestre del presidente europeo, e comunque scrissi anche per l'Expo. I sindacati poi li convocai anche, si espressero in modo negativo, aspettavo, diciamo, appunto una risposta da parte del governo, che non è arrivato, visto con piacere che recentemente il ministro Del Rio rilancia l'idea di una moratoria anche in vista della data del giubileo. Mi chiedo se non sia giunta l'ora di avviare una seria riflessione sulla opportunità di modificare soltanto in alcuni punti la legge 146 del 90 per adeguarla alle esigenze dei tempi. Eppure trovo scandaloso che ci siano dei sindacati con pochissimi iscritti che riescono a paralizzare interi servizi pubblici essenziali. Quindi da questo punto di vista qualcosa bisogna fare. Mi chiedo se non sia arrivato il momento di sottoporre, diciamo, appunto, la proclamazione di uno sciopero ad un referendum preventivo da parte degli iscritti dei lavoratori. Ci sono altre cose poi in realtà da fare, bisogna oggettivamente inasprire l'apparato sanzionatorio, che è irrisorio quando lo si applica soprattutto nei confronti non tanto dei sindacati dei lavoratori, ma nei confronti ad esempio delle amministrazioni o delle imprese che erogano i servizi pubblici essenziali, che possono essere anche loro la causa dell'insorgenza o dell'aggravamento del conflitto collettivo di lavoro. E ancora, in senso più generale, andrebbero potenziati tutti quegli strumenti di prevenzione del conflitto collettivo di lavoro. L'autorità di garanzia per gli scioperi dovrebbe autenticamente trasformarsi in un'autorità delle relazioni industriali. Allora, adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi le iniziative che stanno cercando di prendere gli esercenti di tutta l'area interessata, ripeto, per non utilizzare i turisti italiani o stranieri come selvaggina da passo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Are you with me? Are you with me? E allora, dicevamo, è presto ancora per fare delle previsioni, poi vedremo domani se Federalberghi ci darà le prime indicazioni ufficiali. Le voci, appunto, sono di una presenza non così forte di turisti stranieri, ma ripeto, è ancora presto, noi siamo sempre molto neutri sull'Expo, riteniamo che sia un'opportunità straordinaria, vediamo se riusciremo a sfruttarla. Ne parliamo però con chi rappresenta il mondo degli esercizi pubblici, dei pubblici esercizi, e mi riferisco al presidente della FIPE, che è Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Enrico Stoppani. Buonasera innanzitutto. Grazie anche per l'ospitalità. Allora, voi rappresentate in Italia 300.000 imprese tra ristoranti, bar, stabilimenti balneari, e discoteche, tutti i pubblici esercizi. Non parleremo con lei di alberghi in senso stretto perché aspettiamo domani anche i dati di Federalberghi. Quasi 1 milione gli addetti che voi rappresentate e un valore aggiunto di 40 miliardi di euro in un settore che, inutile dirlo, ha sofferto moltissimo perché si basa prevalentemente sulla domanda interna, sui consumi interni che ancora mancano all'appello. Vorrei concentrarmi con lei però soprattutto sull'Expo, perché solo a Milano, esclusa quindi la provincia, la parte di provincia di Varese, voi rappresentate 6.500 pubblici esercizi, che è impressionante come numero. Allora, intanto, si vuole, a livello così di segnale, di sentore, non oggettivo, non statistico, ma molto empirico, darci la sua visione su quello che lei vede, perché avete anche, ripeto, molti albergatori che pur stanno dentro la categoria Federalberghi, ma rientrano nei pubblici esercizi, se i segnali che lei vede sono confortanti, prudenti o addirittura negativi. Da parte mia ho ovviamente un elemento di grande fiducia, perché dietro ad Expo c'è stato grande impegno da parte di tutti, c'è grande preoccupazione per alcune situazioni di criticità che certamente emergeranno, ma c'è grande fiducia perché Expo è una grande scommessa per il paese, per tutti, anche ovviamente per i pubblici esercizi che io rappresenti. Speriamo che sia una scommessa vincente, perché certamente Expo rappresenta una grande occasione di rilancio del nostro paese, anche in termini di immagine, di credibilità, di autorevolezza internazionale, ma anche in termini di business, che non è ancora peccato evidentemente gestirli, dalla quale noi ci aspettiamo molto, ci sono molte aspettative, ci sono molti preparativi, ci riteniamo assolutamente preparati, perché poi i nostri imprenditori sanno prendere il lavoro quando c'è, senza... Adesso arriviamo anche a quello che avete fatto voi per i vostri associati, ma insomma, lei parlando con gli albergatori quantomeno, che sensazione, ripeto, molto empirica, non vuole essere assolutamente un elemento statistico ufficiale, ma insomma, avete la sensazione che le prenotazioni ci siano oppure no? Beh, lei ha già ben precisato, non rappresento gli albergatori, ma l'informazione che ho è che la città è divisa a macchie di leopardo, per cui abbiamo per esempio gli albergatori di Milano Centro, della stazione centrale, dove mi riferiscono ci siano motivi di grande soddisfazione, diversamente invece per le altre zone della città. Ma bisogna anche ricordarsi che il turista italiano prenota all'albergo con 72 ore di preavviso, l'europeo con 1 o 2 settimane, per cui vedo che ci sono grandi aspettative. Sulla provincia invece ci sono state molte vendite di operator, ma qui il problema è riferito all'leap time, cioè a quella che l'leap time, cioè la data di scadenza che viene concessa all'agenzia che ha prenotato di mandare disdetta rispetto a delle prenotazioni in anticipo, per cui anche in provincia, ripeto, ci sono state grandi vendite che però devono essere ancora confermate con le conferme, ma che però dimostrano un grande movimento. Sì, qui la differenza è appunto tra le prenotazioni sia di biglietti che poi di camere e la conferma dei biglietti e delle camere stesse, perché i dati che abbiamo dato fino adesso riguardavano le prenotazioni, cioè, e quindi tour operator che si erano accaparrati un certo numero di biglietti, poi che questi tour operator riescono a collocare tutti i biglietti o magari che abbiano una richiesta anche superiore alla loro disponibilità, questo è tutto da vedere, certo, come dati oggettivi. Veniamo invece alle iniziative, perché spesso diciamo che le associazioni di categoria ormai hanno un ruolo di consulenza vera e propria, non più di lobby come poteva essere negli anni scorsi. Consulenza vale per tutte le associazioni di categoria e vale anche per voi. Voi che cosa avete fatto come attività di marketing, di formazione per i vostri associati? Perché è chiaro che la prima raccomandazione che diamo a tutti gli esercizi pubblici e agli albergatori è non usare l'Expo come la selvaggina da passo si fa per i cacciatori, cioè spari grosso, triplichi i prezzi è morta lì, perché a differenza di altri elementi, penso al Salone del Mobile, alla Settimana della Moda, dove onestamente tu hai una tale concentrazione in 4-5 giorni di persone che comunque, diciamo così, verrebbero a Milano, perché il Salone è l'appuntamento più importante a livello europeo e mondiale, il Salone del Mobile, e comunque la Settimana della Moda lo è tra le settimane più importanti a livello mondiale, in questo, e allora lì non dico che sia giustificato, ma tanto sai che il buyer, l'espositore deve venire a Milano, e in molte città non solo italiane, quando c'è una fiera che si concentra in 4-5 giorni, notiamo da sempre un aumento dei prezzi degli alberghi. Lo dico per essere molto laico su questo. Altra cosa è dire, una manifestazione di 6 mesi che rappresenta una piattaforma per turisti futuri, che rappresenta un biglietto da visita di persone che non sono obbligate a venire all'Expo, mentre, ripeto, il buyer, l'operatore è tra virgolette obbligato a venire al Salone per motivi di affari, che fanno una scelta, ecco, se lì tu inizi a trattarli come selvaggina da passo, ti fai un danno nel presente, perché uno che magari era indeciso vede i costi e non ci viene, ma ti fai un danno enorme anche per il futuro, perché poi si dice attenzione, i prezzi a Milano sono improponibili rispetto all'offerta che viene data, e magari non è così perché sono stati aumentati artatamente solo per l'Expo. Allora, che lavoro di formazione avete fatto su prezzi e poi anche sul tipo di accoglienza? Beh, lei ha precisato all'inizio della sua domanda quello che è il ruolo dell'associazione di categorie, insomma, certamente quello di fare assistenza e attività di lobby, ma in questa fattispecie anche l'obbligo e il dovere di aiutare e anche raccomandare, perché quando dicevo che Expo rappresenta una scommessa per tutti, anche per la città, evidentemente non dobbiamo fare in modo che diventi un boomerang per la città, perché nella misura in cui dimostreremo qualità, serietà, trasparenza, correttezza, evidentemente trasferiremo un'immagine positiva anche dal mondo della ristorazione che noi rappresentiamo. Allora, per evitare questo abbiamo fatto quelle che sono le raccomandazioni, le formazioni anche su quelli che sono gli aspetti igienico-sanitari. Ci saranno particolari controlli da parte delle autorità di sicurezza in campo igienico-sanitario che andranno a monitorare con particolare attenzione per evitare ovviamente quelli che sono i casi che procurerebbero evidentemente effetti negativi sulla città e sulla manifestazione, e l'obbligo della federazione in questo modo è stato quello di raccomandare un particolare impegno su quelli che sono gli aspetti di trasparenza dei prezzi, di correttezza, di professionalità, perché nella misura in cui il pubblico esercizio riuscirà a trasferire i veri valori di cui è portatore, potremo magari sperare che abbia quegli effetti positivi che tutti ci aspettiamo. Voi avete fatto anche il progetto Expo Friends, che prevede una cosa molto concreta, e cioè una specie di targa che al bar, al ristorante, all'esercizio commerciale viene data come Expo Friends, come amici dell'Expo. Ma che cosa prevede come obblighi da ottemperare? Beh, l'iniziativa è stata fatta per far sì che i negozi diventino anche i punti di riferimento sulla città a favore dei visitatori, i quali per qualsiasi motivo avessero bisogno di avere informazioni su percorsi, su iniziative eccetera, trovano nel negozio un punto di assistenza con un info point, e questo nella finalità di far diventare la Milano a tripla A che noi vogliamo, cioè accogliente, attrattiva, aperta, sulla quale l'impegno dei negozi, dei pubblici esercizi e di chi ci starà è quello di offrire assistenza a un visitatore che può trovare nel corso della sua giornata necessità di essere accompagnato nel suo percorso, per cui l'obbligo del commerciante o del pubblico esercizio è quello di dare le informazioni, di essere aperto ad agosto, di stare aperto in alcune giornate anche serali in cui venissero previste delle iniziative in quel territorio, di avere un minimo di preparazione su quello che sono gli aspetti di lingua, di avere quei requisiti, cioè di serietà, di qualità e di professionalità che sono fondamentali. Quindi, se ho ben capito, tutti gli esercizi commerciali che avranno fuori esposta la targa Expo Friends avranno sostanzialmente il palinsesto, chiamiamolo così, di tutti gli eventi dei 6 mesi, e avranno, non dico l'obbligo, ma si prendono il dovere di dare informazioni al turista italiano o straniero che dovesse passare e vedere il logo Expo Friends. Ho capito bene? Perfetto. Allora, i messaggi, dunque, i prezzi sono duplicati se non triplicati a Milano, So di gente che va in albergo a Chiasso per via dei prezzi, può essere. Altri scrivono per esempio che hanno esperienze a Norimberga. Norimberga è una città di fiere in Germania assieme ad altre, vale anche per Düsseldorf. I prezzi degli alberghi vengono aumentati in concomitanza degli eventi, ripeto, è tutto normale quando l'evento dura una settimana, 5 giorni. Attenzione quando un evento dura 6 mesi, è un po' diverso. E soprattutto un conto è aumentare i prezzi perché sai che hai la clientela business, chi viene per fare affari e deve venire comunque, come dicevamo prima. Altra cosa se li aumenti per un turista che sta decidendo se venire oppure no, non ne va del suo lavoro o dei suoi affari futuri. Detto ciò, voi avete predisposto un pacchetto accoglienza, perché insomma noi siamo abituati storicamente ad accogliere i turisti soprattutto europei o americani, il che dal punto di vista culturale, ferme restando tutte le differenze tra un britannico, un francese, un tedesco, un americano, c'è già una grossa conoscenza dell'Italia, della cucina italiana, dell'accoglienza italiana, dei limiti e anche dei difetti di questo paese. E poi magari vengono per trovare delle caratteristiche italiane. Altra cosa è accogliere un cinese, un indonesiano, un indiano oppure un medio orientale. Su questo, perché i problemi di distanza culturale possono diventare anche problemi di accoglienza vera e propria. Voi avete diffuso un vademecum, ma che cosa contiene? Allora, abbiamo fatto un'iniziativa di marketing antropologico, vale a dire abbiamo offerto ai nostri associati la possibilità di un progetto che abbiamo definito il Country Friendly Welcome Accommodation, che serve ad offrire informazioni ai nostri operatori su come viene gestito un cliente che arriva da paesi lontani, almeno dal punto di vista delle culture e tradizioni, come i cinesi, gli arabi e gli indiani, circa per esempio gli usi alimentari. Per esempio basti pensare all'alcol o al maiale per il mondo musulmano arabo, oppure quello che è il tema della scaramanzia a tavola, il problema dei colori, il problema dei numeri, eccetera. Allora, tutta una serie di informazioni che possono anche essere considerate banali, ma che servono a crescere quella sensibilità, quel rispetto all'ospite, che deve costituire un elemento di rafforzamento della nostra sistema di accoglienza. Voi avete anche fatto dei seminari con un'app, come ormai va di moda, dedicata, che permette poi di tradurre il menu in 6 lingue, no? Esatto, per visto che l'inglese è ormai diffuso, però ci sono molte altre lingue, sono attesi 1.200.000 cinesi, per cui il ristoratore che avesse necessità di tradurre in più lingue il suo menu ha la possibilità di poterlo fare utilizzando questa app che l'associazione ha messo a disposizione gratuitamente. Per curiosità mia, nel vademecum, che appunto il Country Friendly Welcome Accommodation che avete dato ai vostri associati per accogliere i turisti che vengono da paesi più distanti sia geograficamente che culturalmente, cinesi, mondo arabo, indiani, che ci può dare qualche raccomandazione? Perché che cosa avete scritto dentro il vademecum? Cioè quali sono determinate caratteristiche? Il maiale e l'alcol, diciamo, ci arrivavo anch'io, che insomma proprio andare a offrire una costina di maiale con del vino rosso a una persona di religione islamica non fosse il massimo dell'accoglienza. Fin lì, diciamo, ci arrivavo anch'io, ma c'è dell'altro. Beh, due esempi molto banali. Sì. Per esempio, quando ho un ospite arabo, non è assolutamente corretto rivolgersi alla donna. Non bisogna guardare la donna negli occhi, oppure i numeri a tavola, la scaramanzia per noi vale il 13 o il 17, per altri paesi sono altri. Oppure, per esempio, il cliente cinese che mi lascia nel piatto un avanzo, per noi è considerato evidentemente sintomo di qualche problema. Invece è il ringraziamento che l'ospite cinese ci dà, nel senso che la porzione somministrata è adeguata, è stata ritenuta di soddisfazione e l'avanzo che lascia è una forma di ringraziamento alla cucina. Per cui sono aspetti minimali che però devono saper essere, certo, utilizzati per rafforzare. Beh, minimali mica tanto, perché capita nei ristoranti più attenti che se uno avanza qualcosa gli venga chiesto se qualcosa non andava, signore, ecco, nel caso. Oppure all'opposto, immagino un ristorante in cui vede che il cinese non ha lasciato nulla, neanche un chicco di riso, pensa che il cinese sia soddisfatto, in realtà il cinese in questo caso è insoddisfatto perché il messaggio è la porzione non era adeguata. Tra l'altro, se non ricordo male, ci sono anche proprio problemi di galateo, oltre a quello che lei ricordava col mondo arabo, a noi risultava che non volessero nemmeno essere seduti troppo vicini gli uni agli altri. Allora un ristoratore può pensare, faccio un'intera sala dove metto tutto il mondo, diciamo, così non è, perché su questo si creano problemi anche di carattere diplomatico. C'è un ultimo aspetto che vorrei toccare con lei. Comunque Vademecum è disponibile e appunto l'app si può scaricare per tutti gli associati della FIPE. Sembrano cose banali, piccole, però attenzione che poi l'accoglienza, come sanno bene gli operatori, si fa su questi dettagli, non si fa sulla qualità del cibo che diamo, non dico per scontata, ma speriamo che sia e resti il nostro punto di forza, né sulla l'appetibilità del Made in Italy, dell'Italian, della cucina italiana. Si fa su queste capacità e ogni tanto noi notiamo ancora non della grande professionalità in alcuni ristoranti, sia in sala che fuori sala. Per cui attenzione, l'importante però è non pensare che questi siano dei gonzi che vengono per essere spennati. C'è un'ultima iniziativa di cui vorrei parlare con lei che mi piace moltissimo invece, si chiama La Cena Sospesa. Ora, per chi non conosce Napoli, a Napoli da sempre esiste il caffè sospeso, cioè uno va in un bar, beve un caffè e poi ne lascia un altro sospeso. Che cosa vuol dire sospeso? Che è a disposizione del prossimo che arriverà nel bar e non ha i soldi per permettersi il caffè. Al di là di ogni retorica è un atteggiamento bellissimo, nel senso che dà il senso della solidarietà, per cui una persona non abbiente, che non abbia i soldi per il caffè, può entrare in un bar e chiedere: c'è qualche sospeso? Sì. Ecco, voi con la CDO, prendendo esempio da quello che è appunto la tradizione a Napoli, avete organizzato con l'Arcidiocesi di Milano la cena sospesa. Ecco, ci può spiegare come funziona? Vabbè, l'iniziativa, precisiamo, è della Arcidiocesi, che ha coinvolto la Caritas, che a sua volta ha coinvolto la FIPE, la Caritas, e per cui siamo assolutamente contenti del coinvolgimento. Tra l'altro, dal punto di vista personale, insomma, fare beneficenza bisogna sempre farla in silenzio, però a volte promuoverla serve anche per dare il buon esempio. Allora, con la cena sospesa, che tra l'altro si aggiunge all'iniziativa del refettorio abruziano, sempre promosso dalla Caritas, con le star del nostro settore, Massimo Bottura in primis, ha la finalità di raccogliere all'interno del pubblico esercizio delle offerte che poi gireremmo alla Caritas, che verrebbero trasformate in buoni pasti solidali da trasferire poi ai tanti bisognosi che sulla città operano, vivono e che hanno bisogno di essere aiutati. Questo durerà per i 6 mesi dell'Expo per i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa, ma praticamente io come cliente, quando pago, posso fare una donazione. Ecco il tema della cena sospesa: metti che il mio conto sia 40 euro, posso pagarne 50 e la differenza essere parte di una cena sospesa che va alla Caritas. Ci sarà un marchio, un logo che lo ricorderà? Assolutamente sì, con i marchi evidentemente dei soggetti coinvolti. Tra l'altro partecipiamo con una donazione iniziale importante che arriva dai fondi della federazione, ma anche da Confcommercio e dagli enti a noi partecipati, in modo che cominciamo a dare noi il buon esempio mettendo un consistente importo a disposizione della Caritas per questa iniziativa. Stiamo cercando dei testimonial, li abbiamo trovati, ma non posso oggi anticipare alcune cose, ma vorremmo che le star del nostro settore siano i primi testimoni di questa bella iniziativa, insomma, perché oggi bisogna avere anche la capacità di guardarsi indietro, soprattutto in un momento di grande difficoltà come l'attuale, dove i poveri sono molto di più di quelli che potrebbero apparire. Allora, in bocca al lupo anche a tutti i suoi associati, quindi a tutti i pubblici Grazie. Esercizi, a patto che si comportino bene, nel senso, per bene abbiamo già chiarito, e non fate i furbetti. In questo caso non porta da nessuna parte fare i furbetti, e soprattutto speriamo che l'iniziativa della cena sospesa, che come lei ricordava ormai il tema della soglia di povertà ha coinvolto intere nuove, ahimè, nuove classi di persone, o perché hanno perso il lavoro o per le difficoltà economiche in generale, speriamo che l'iniziativa della cena sospesa acquisti anche peso e venga conosciuta, perché penso che poi molti italiani su questo non avrebbero problemi a lasciare una quota parte del conto per la Caritas. Grazie al presidente della FIPE Lino Enrico Stoppani. Grazie a voi. Allora, vedo molti messaggi di aumento dei prezzi degli alberghi, e qui ne parleremo domani. Per quello che riguarda la cena sospesa, sì, ci credo, penso che sia una bella iniziativa. Chi dice: ma come, vi occupate di Expo, dei turisti, del galateo a tavola? Beh, cosa volete che ci occupiamo? Solo di derivati e di finanza? Attenzione, l'Expo è una partita importantissima dal punto di vista economico. Poi c'è qualcuno che rosica, che non gliene frega nulla, che vuole che tutto vada in vacca, va bene, per gli hotel senza stanze disabili ne parleremo domani, il tema è giustissimo e ci mancherebbe, e cercheremo di capire anche che cosa abbiamo fatto per accogliere i disabili, gli albergatori dell'area interessata. Adesso c'è il GR24, la borsa ha chiuso male e questo sarà il prossimo tema, -2,30%, Milano -2,60%, Parigi -2,60%, Francoforte addirittura -3,20%. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, c'è un detto in inglese per gli operatori dei mercati finanziari che dice sell in May and go away, vendi in maggio e vattene via, vattene in vacanza. Ora maggio ci siamo, ma ufficialmente non è ancora iniziato. Lo dico perché la giornata di oggi è stata particolarmente negativa per tutte le borse europee e dell'area euro in particolare. Parigi -2,60, Francoforte -3,20, Milano -2,28 alla fine, Londra invece -1,20, l'America perde 0,5 punto percentuale. Importante questo perché inizialmente le spiegazioni si appellavano, diciamo, al dato americano su un PIL nei primi tre mesi, più sicuramente è più basso delle attese, +0,2 contro un +1% atteso, dovuto a un calo dell'export e del prezzo dei beni petroliferi. Dovuto il calo dell'export americano in primo luogo al dollaro forte, però a me sembrano leggermente pretesti. Comunque, Eleonora Micheli, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Non siamo ancora in maggio, ma sembrava, diciamo, di ripercorrere il detto britannico. -2,28%, tra l'altro sono peggiorate proprio diciamo da metà seduta in poi le borse. Sì, soprattutto da metà seduta, e poi hanno ampliato le perdite dopo la diffusione del dato americano sul PIL, che è cresciuto nei primi tre mesi dell'anno solamente dello 0,2%, ben al di sotto delle stime degli analisti, che invece avevano messo in conto un progresso attorno all'1%. Comunque, probabilmente, come hai detto tu, si tratta anche di un pretesto per portare a casa i guadagni realizzati in questi primi mesi dell'anno, dove sia Piazza Affari sia le borse europee hanno registrato ottime performance. E allora vediamo i titoli, soprattutto oggi le banche, ma le di Fiat Chrysler parleremo tra un attimo, così come della vicenda Milan. Quindi, saltando Fiat, che è il peggiore, -4,60%, noto Mediolanum -4,5%, Monte dei Paschi -4%, Pop Emilia Romagna -3,80%, Banco Popolare -3,60%, come la Pop Milano, Ubi Banca -3,20%, Intesa San Paolo -2,90%, se vogliamo cala meno del resto Unicredit -2,15% e Mediobanca -1,1%. Novità particolari sulle banche, tra l'altro ho visto oggi uno studio di Prometeia che diceva che dopo 4 anni di perdite nel 2015 le banche italiane torneranno in utile per complessivi 3,8 miliardi, eppure oggi i titoli bancari sono stati venduti a man bassa. Sì, oggi sono andate male, anche in questo caso si tratta di prese di beneficio innescate anche dal fatto che ad esempio il Tesoro ha collocato 6 miliardi di BTP a 5-10 anni con i tassi che sono tornati a salire rispettivamente allo 0,63% e all'1,4%, quindi questo ha dato un po' il là alle vendite. Poi come si dice sempre in borsa, sell on news, e questo è nel caso di Mediolanum, cioè sì, vendi sulla notizia. Mediolanum quest'oggi ha pubblicato i conti del primo trimestre, l'utile è volato addirittura del 70% a 137 milioni su masse amministrate che sono salite del 18%, conti nettamente superiori alle attese, tant'è che Massimo Doris ha dichiarato proprio a noi di Radio Cora di aver rivisto al rialzo le stime per fine anno, che a questo punto sarà ancora un anno di crescita, dopo aver detto invece nei mesi precedenti che sarebbe stato un anno in linea con il 2014. Però nonostante questo Mediolanum ha perso il 4,5%. Del resto, se poi il mercato sì, frena, anche tutte le società di gestione ne risentono. Non a caso è andata male ad esempio anche Azimut, che ha perso il 3,95%. Allora, per quello che riguarda i conti, oggi li ha diffusi anche Eni relativi al primo trimestre, -46%, il risultato adjusted, come si dice in gergo, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto nei primi tre mesi è stato a 700 milioni di euro. La produzione di idrocarburi è cresciuta del 7% a 1 milione, praticamente sono sostanzialmente 1,697 milioni di barili di olio equivalente al giorno. Allora, ancora per quello che riguarda Eni, meno 1,50%, oggi abbastanza bene Telecom fino a quasi alla fine, poi è arrivata a chiudere in pareggio. Lì, Eleonora, continuano le voci su un interesse di Vivendi. Ma sì, oggi c'era un gran parlare di Vivendi, perché si diceva nei giorni scorsi che Vivendi, con 11 miliardi di liquidità in cassa, si è interessata a fare acquisizioni. Si era parlato di Mediaset, che però ha chiuso in calo del 3,14%, proprio perché nel corso dell'assemblea Pier Silvio ha detto che il controllo della società non è in discussione. E poi si è parlato di Telecom, in particolare oggi il Corriere della Sera, facendo riferimento anche a media francese, sostiene che a breve Vivendi entrerà in possesso dell'8,3% del capitale di Telecom dopo la partita su cui c'era l'accordo con Telefonica, ma non si accontenterà solamente dell'8%, ma bensì salirà addirittura al 30% del capitale della compagnia telefonica. Su questa indiscrezione i titoli hanno fatto bene fino a poco prima della chiusura e poi hanno chiuso invariati. Poi tu parlavi anche di Eni, va detto che stamattina Eni era partita bene, era partita in rialzo, perché è vero sì che l'utile è calato, d'altra parte si tratta di conti comunque migliori, certo, rispetto a quelle che erano le attese del mercato. Poi comunque nel pomeriggio ha imboccato la strada del ribasso, pur facendo meglio comunque del mercato. Allora, migliori e peggiori in assoluto, poi parliamo di Fiat da un lato e in primo luogo del Milan. I migliori e peggiori, diciamo, della giornata sono Innovatech più 10,60, PRL più 5, Bioera più 4, e poi i peggiori invece Bion meno 11,40, Vray Communication meno 8,16, e poi KF meno 5,90, Safilo meno 5,85%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo in tema di mercato, non direttamente su Mediaset. Il titolo Mediaset, ricordo, ha chiuso in calo oggi, devo dire come tutto il resto della borsa sostanzialmente, dei titoli maggiori, ma parliamo del Milan, perché ormai le trattative non solo vengono date per confermate, ma anche molto molto interessanti. Mediaset ha fatto meno 3,14%, e allora il Milan, che dopo l'Inter potrebbe andare in mani asiatiche. €500 milioni, questa è la cifra che circola per avere il 51% del Milan. Questo sarebbe o vorrebbe offrire il thailandese Bi Thakebul in una cordata dove sono presenti anche i soci di Abu Dhabi, la società di brokeraggio ADS Securities e i cinesi di China Citic Bank, che è indirettamente controllata dal governo cinese stesso. Infatti il thailandese B valuta il Milan 1,2 miliardi, vanno però detratti debiti per 250 milioni di euro. Ieri tra l'altro la società rossonera ha approvato il bilancio del 2014 con perdite per 91 milioni di euro, che portano il rosso del Milan negli ultimi 10 anni a 360 milioni di euro. C'era anche un'altra cordata, sempre asiatica, cinese, quella di Hong Kong, dell'uomo d'affari di Hong Kong Richard Lee. Mi sembra che sia sfavorita in questo momento. Chiedo lumi a Marco Berinazzo del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera Sebastiano. Ma sì, sono già arrivati a Arcore, perché adesso, prego. L'incontro conviviale, sì, ci sarà questa sera. È un incontro che secondo i compratori, gli acquirenti, serve a conoscersi, è un incontro familiare, lo possiamo così definire, non è periodo natalizio, ma il clima sembra quello, in quanto le carte sono state già preparate dai consulenti, dagli uffici legali, e quindi c'è grande ottimismo sulla possibilità di chiudere questa trattativa. Rispetto all'altra cordata io ho sempre avuto tanti dubbi, ne ho di più, Cioè, rispetto, avevi dubbi sulla cordata di Hong Kong? Sì, sull'altra, nel senso che avevo raccolto più elementi a favore della cordata legata a, a Mr. B, e soprattutto ne ho adesso, insomma, in quanto mi risulta che lo scenario sia ancora più interessante, nel senso che l'intervento della banca cinese sia stato voluto e ispirato da esponenti importanti del Partito Comunista Cinese, che vedono nel Milan un asset fondamentale per un progetto più ampio che è stato indicato dallo stesso Presidente della Repubblica Popolare Cinese, che è quello di riformare il calcio in Cina per farne un asset vincente come strumento di politica economica. So che può sembrare... No, ma questo è un obiettivo è serissimo. No, io sorridevo perché... che il Partito Comunista Cinese possa entrare in una quota del Milan di Berlusconi, adesso fatemi fare la battuta, è insomma così un segno dei tempi e anche così una beffa quasi della storia. Però detto ciò, al di là della battuta, qui ci sono in ballo appunto 500 milioni di euro, lo dico a chi sta scrivendo, nulla c'entra invece la vicenda Mediaset. Lì c'è l'incontro Berlusconi-Murdoch a alimentare le voci, ma Pier Silvio Berlusconi ha detto che il controllo di Mediaset non è in discussione. Le varie voci che si erano rincorse in questi giorni immaginavano un'integrazione tra Sky Italia e Mediaset Premium. Oggi con Fallonieri, il presidente del Biscione, ha detto che Mediaset Premium ha già 2 milioni di clienti attivi, ma quella è un'altra partita. Secondo te quando si chiuderà quella del Milan? Guarda, questo incontro è un incontro da dentro fuori, nel senso che tutte le valutazioni sono state fatte, ripeto, e quindi tra stasera e domani mattina si dovrebbe sapere appunto se è della partita incontro. Oppure se non se ne fa nulla, diciamo. Esattamente. O una quindi o l'altra. A breve, insomma, sapremo se anche l'altra parte del naviglio, se sull'altra parte del naviglio ci sarà una bandiera asiatica più cinese che thailandese. Più cinese che thailandese, hai ragione, ma insomma uno scontro tutto del sud-est asiatico, Filippine contro un derby. Con Pallonieri ha detto appunto un derby del sud-est asiatico. Thailandia e Cina sono economie del futuro e anche da questo punto di vista l'Italia deve inchinarsi, purtroppo. Vabbè, purtroppo se noi non siamo contrari agli investimenti degli stranieri perché lasciano l'occupazione e il know-how in Italia, questo non sempre avviene, lasciamo stare la vicenda a Milan in questo momento. Grazie intanto a Marco Belinazzo, non so se questo purtroppo fosse dovuto... Sei milanista Belinazzo? Beh, leggermente no, insomma, tendo a tifare per una squadra che è più a sud, abbastanza più a sud di Milano. No, l'importante è che tu non fossi in conflitto di interesse, diciamo. No, non sono in conflitto di interesse, sono assolutamente lucido e senza patimenti d'animo, diciamo così. Va bene, grazie anche a Marco Belinazzo. Ultima parte di Focus Economia. No, stiamo sorridendo in regia, ma che è sta strada degli animali sulla strada, sulla 1, sulla Fiera? Non ho capito. Adesso non è che mi voglio occupare anche del traffico, però sentire le informazioni sul traffico che dicono che in autostrada ci sono animali sulla strada, spero non si riferisca, diciamo, agli automobilisti. Allora, Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Oggi il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles, i conti dei primi tre mesi dell'anno, tra l'altro li fanno in Brasile. Sì, hanno fatto il consiglio di amministrazione in Brasile perché ieri, come forse avete letto sul Sole 24 Ore, è stato inaugurato lo stabilimento A Pernambuco. Che ho preceduto. Bravo. Nuovo stabilimento Jeep in cui il gruppo ha investito 2 miliardi e 200 milioni di euro. E sempre in Brasile li faranno anche... il CDA di CNH di Case New Holland, no? Se ho ben capito, domani certo. Sui conti dei primi tre mesi. Allora, ricavi più 19%, consegne auto meno 2, bene invece la Jeep, dacci tu il quadro complessivo, Andrea. Dunque, i ricavi sono saliti molto, soprattutto per l'effetto dollaro. Il dollaro forte rivaluta tantissimo i ricavi ottenuti negli Stati Uniti, che sappiamo sono il grosso di quelli del gruppo quando vengono tradotti in euro. C'è un aumento comunque degli utili, sia a livello di EBIT che di EBIT aggiustato, che è una misura un po' depurata delle componenti straordinarie, per dare la sintesi da 650 a 800 milioni di euro. Sempre in sintesi tra le varie aree, bene gli Stati Uniti, bene l'Europa che è in nero per il secondo trimestre consecutivo, male l'America Latina che risente del crollo del mercato, del fatto che Fiat è andata un po' peggio del mercato e anche dell'investimento a Pernambuco. Senza Pernambuco, ha detto Marchionne, più o meno i conti sarebbero stati in pareggio. Maluccio anche l'Asia, dove la Cina sappiamo che cresce ma un po' meno di prima e dove le vetture Fiat prodotte lì non stanno andando benissimo, si attende anche lì l'arrivo della Jeep, che sembra un po' essere il toccasana per i problemi del gruppo in tutto il mondo, Jeep che dovrebbe cominciare a essere prodotta lì in Cina alla fine di quest'anno. Questa è un po' la situazione. Aggiungo solo Ferrari e Maserati. Ferrari va bene, aumenta i profitti, Maserati invece rallenta con un calo delle vendite, anche lì soprattutto in Cina, che sappiamo per queste auto di lusso è uno dei mercati più grossi. Allora, a un ascoltatore che non manca mai di insultarmi ogni giorno, abbia un po' di pazienza, stiamo per parlare anche dei dati sulla fiducia di consumatori e di imprese che, come annunciavo all'inizio del programma, sono in calo, sempre con questa storia che siamo renziani. Ma ascoltate, ma Radio 24 ha avuto ospiti, faccio notare banalmente, nell'ultima settimana nel programma di Giovanni Minoli, sia Enrico Letta che Romano Prodi, ieri. Non mi sembra che proprio siano due esponenti politici che adorano l'attuale Presidente del Consiglio Renzi. Le critiche le facciamo quando le riteniamo rilevanti, dopodiché non so cos'altro vogliate. Adesso arriviamo verso anche i dati sulla fiducia. Dicevamo dei conti, l'utile netto confermato in target a 1 miliardo e 200 milioni di euro. La cosa che a me, però lo dico in maniera molto neutra, la più impressionante è il ritorno in utile di tutte le attività europee, Andrea, nei primi tre mesi. Sappiamo che il mercato si è ripreso, il mercato ha segnato un aumento delle consegne nel primo trimestre, sia in Italia che negli altri paesi europei, e Fiat ha anche recuperato un pochettino di quote. Sappiamo che sono arrivati finalmente un po' di modelli nuovi, la Jeep Renegade e la 500X, e questo inevitabilmente ha portato a un miglioramento, per fortuna, dei conti. Aggiungo solo una cosa alla fine che tu non hai citato, sì, ma può essere interessante. Marchionne ha ribadito anche l'appello al consolidamento nel settore, sappiamo che ne parla da un po' di tempo, oggi ha presentato una ventina di slide che dimostrano che il settore auto investe troppo, che non ripaga il costo del capitale, almeno per quanto riguarda i costruttori di massa, e che quindi ci si deve consolidare. La domanda che si fanno tutti, si sono fatti gli analisti, ma ci facciamo anche noi, è: come è possibile fare delle fusioni con qualcuno se apparentemente nessuno degli altri vuole farle? Questo è un po' il rompicapo. Oggi Marchionne ha spiegato, che lui in realtà si rivolge al mercato, cioè, detto, tradotto, lui spera che il mercato, inteso come investitori, come grossi investitori, magari come qualche hedge fund, questo lo dico io, non l'ha detto lui, faccia pressione su qualcuno dei concorrenti per migliorare appunto la struttura di capitale di questa industria. Vedremo nei prossimi mesi, o magari anche nei prossimi anni, se ciò avrà successo. E mi ricollego appunto alla notizia che citavamo anche in apertura sulla fiducia di consumatori e imprese, che purtroppo, e non godo quando ho notizie, perché non sono pro o queste notizie a favore del governo, sono pro a favore dell'economia del paese. Leviamoci un po' di prosciutto dagli occhi. Allora, l'Istat segnala una frenata della fiducia sia delle imprese dai 103 punti di marzo ai 102 di questo mese, sia dei consumatori da 110 a 108 punti. Entrambi gli indici restano però ai massimi livelli degli ultimi anni. Adesso qualcuno dirà: ecco che hai messo la coda renziana. No, è la statistica che parla. Per trovare un livello più alto della fiducia dei consumatori, nonostante il calo del mese di aprile delle imprese, bisogna andare per i consumatori al giugno 2002, per le imprese a giugno 2008. Allora, si conclude qua la puntata odierna di Focus Economia. L'ultimo aggiornamento degli Stati Uniti è meno 0,76%, confermo invece a chi me lo chiede che l'euro oggi è in leggero rafforzamento, siamo a 1,11, quasi 1,12 nei confronti del dollaro. L'augurio di una buona serata come sempre, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.